A Palma di Montechiaro, provincia di Agrigento, sono tutti poveri. Il 60% dei potenziali contribuenti non dichiara nulla. Incrociando i dati IRPEF 2009 con quelli della forza lavoro e con quelli del censimento, qualcosa però non torna. Lo hanno fatto notare gli studiosi del Centro Studi Sintesi di Venezia, che hanno redatto uno studio per il Sole 24 Ore, dal quale risulta che il comune avrebbe la più alta infedeltà fiscale d'Italia. L'intera provincia di Agrigento non è da meno, con il 41% dei contribuenti che non contribuisce affatto. Qui la Guardia di Finanza nei primi 8 mesi del 2011 ha trovato 211 milioni di euro di imponibile non dichiarato. Certo, Palma di Montechiaro non è ricca. A parte le strade del centro storico, la maggior parte delle vie è senza asfalto. Sono più di 1000 le costruzioni illegali che non hanno diritto ai servizi pubblici come acqua e luce elettrica. A Palma non c'è una palestra, né una piscina, né una biblioteca, né un ospedale. C'è un solo asilo nido che presto chiuderà, perché il sindaco, Rosario Bonfanti, non ha i soldi per mantenerlo. Certo, se il comune collaborasse a far emergere l'evasione, magari potrebbero beneficiarne le casse municipali e i servizi per i cittadini. Per ora uno spiraglio c'è. Il comune ha firmato con l'Agenzia delle Entrate una convenzione per segnalare gli evasori. È uno dei pochi della provincia. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.